Focus Economia di Sebastiano Barisoni. E 9 minuti, God Save the Queen dei Sex Pistols, considerata a quel tempo canzone irriverente, addirittura sospesa, beh, nulla rispetto a quanto è successo stanotte e poi dalle 4 di mattina soprattutto. È inutile parlarne, o meglio, inutile dare la notizia, diamo l'aggiornamento di mercato se vogliamo, visto che come sempre in questi casi chi ne paga più le conseguenze sono i paesi più fragili, noi e Spagna. Ricordavamo prima nei mercati finanziari, stiamo facendo i calcoli, ahimè non è nemmeno il 2008, quindi il crack Lehman Brothers, il riferimento si va indietro stando quello che stiamo vedendo al 1981 per trovare un crollo della borsa di Milano dell'11,1% come adesso. Allora, i titoli, cosa volete che vi dica? Meno 22% Unicredit, meno 22% Biper, meno 21% Intesa San Paolo, meno 21% Popolare di Milano, meno 20% Mediobanca, meno 20% Banco Popolare, meno 20% Bibanca, meno 17% Unipol, meno 15% Mediaset e Telecom Italia, meno 16% Monte dei Paschi, meno 15% Generali, meno 13% Mediolanum. E Leonardo Finmeccanica meno 12%, mi fermo con chi perde più del 10%, Prismian il 10,80%, Saipem il 9,90%, si salva solo Italcementi meno 0,40%, Luxottica meno 2,40%, Campari meno 3,12%, e meno male che i mercati si erano preparati. Allora, sì, faremo sentire anche London Calling, London Burning, London Falling Down, ce l'abbiamo London Falling Down, però adesso la sensazione che si registra in Gran Bretagna in questo momento è di stupore, come se molti inglesi non si fossero resi conto di cosa hanno combinato, però ormai il voto c'è, vedo molte dichiarazioni rassicuranti, per carità, staremo a vedere lunedì il rimbalzo, ci auguriamo che sia un rimbalzo. Ma lo shock intanto l'hai preso, l'hai portato a casa, poi tutto il resto è teoria e accademia. Ne parleremo nella seconda ora, vedo già dei commenti, anche con due persone che secondo voi hanno responsabilità, perché no, hanno svolto ruoli importantissimi, uno è stato Presidente della Commissione Europea e due volte Presidente del Consiglio in Italia, mi riferisco a Romano Prodi, l'altro è stato per 4 volte Ministro delle Finanze di tutti i governi Berlusconi e devo dire con posizioni anche molto di scontro nella parte finale con l'Unione Europea, mi riferisco a Giulio Tremonti, parleremo con loro due che apparentemente più distanti non possono essere di quello che è successo e di quello che deve fare l'Europa e delle responsabilità che hanno però anche i leader europei. Per carità, il voto è britannico, ma non sfugge a nessuno che non è che nel resto del continente europeo tutti amino l'Europa e solo i britannici siano particolarmente disaffezionati. Siamo ai minimi storici di gradimento dell'Unione Europea in tutti i suoi cittadini. I britannici da sempre sono stati quelli più scettici, ma andate a vedere i sondaggi nel resto del paese, nel resto dell'Europa. Faccio notare che 20 anni fa l'Europa era il miglior club dove essere, c'era la corsa a entrare nell'Unione Europea. Chi vi parla è cresciuto con questa idea di Europa. Oggi il voto spacca in due la Gran Bretagna anche dal punto di vista anagrafico, oltre che sociale e geografico. Tutti quelli che hanno meno di 45 anni hanno votato in maggioranza per restare nell'Unione Europea. Tutti quelli, o meglio la maggioranza di chi ha più di 49 anni, ha, in maggioranza anche importante, ha votato per uscire. E anche questo andrà analizzato. Ma così come le responsabilità del voto sono britanniche, è inutile girarci attorno. La gestione dell'Europa da parte degli Stati, c'è chi dice perché i vari leader si sono concentrati solo sulle politiche interne, la Germania ha pensato ai casi tedeschi, la Francia ai casi francesi, l'Italia ai casi italiani, la Grecia, i casi greci e via, greci e via così. Però quello che è un dato di fatto è che questa gestione dell'Europa, su cui non voglio fare un pippotto contro la Germania, ma è indubbio che chi ha gestito senza avere la voglia di fare la leader, ma che il paese più forte di questi 8 anni è stato la Germania, è indubbio che le politiche di austerità e tutte recessive e quindi procicliche abbiano peggiorato ulteriormente la situazione, è indubbio che ormai l'Europa dia la sensazione di essere una tagliola per quanto riguarda le grandi strategie economiche, per cui Mario Draghi stampa moneta ma non c'è un piano di investimento serio, se non quella buffonata di Juncker, per fare investimenti europei, quindi per assorbire questa moneta, e l'Europa sembra occuparsi solo di zucchine, basilico, prezzemolo, dimensioni delle cozze e sto zitto così e dimensioni delle vongole. Sì, in effetti vorrei capire se ci sono dichiarazioni anche di Schäuble e dalla Germania, mi sono tutti zitti, eh? Perché la Gran Bretagna non è la Grecia. Comunque andiamo con ordine, parleremo anche di questo, parleremo dei mercati finanziari, cercheremo di capire e ascoltare anche varie dichiarazioni. Ripeto, le borse hanno purtroppo aggiornato il peggior calo da Lehman Brothers, l'euro su dollaro è a 1,11, la sterlina stanotte è iniziato verso le 4 a precipitare, perdeva prima l'8, poi il 9, poi il 10%, a questo punto c'è anche la dichiarazione dei leader europei, lunedì dovrebbe esserci il primo incontro Hollande, Renzi e Merkel. Da quello che stiamo capendo il tentativo è di reagire rispolverando il nocciolo duro dei paesi fondatori della CECA, la Comunità Europea dell'Acciaio e del Carbone, e c'è il nocciolo duro dei paesi fondatori per ridare vigore a questa Europa esanime, ma soprattutto sotto shock, perché insomma, non giriamoci attorno, la maggior parte, i broker William Hill, i broker britannici hanno cannato in pieno il risultato, ma soprattutto tutti hanno cannato in pieno il risultato, perché saranno convinti in finale, e guardate la reazione dei mercati di ieri, che alla fine magari per un pelo, pur con macerie e quant'altro e detriti, ma sarebbero passati i Remain, e no. Adesso tutti giustamente cercano di tranquillizzare, lo fa la Banca Centrale Europea, e infatti l'esponente della BCE Ewald Snowtony ha detto alla Banca Centrale Europea e alla Banca Centrale Inglese hanno predisposto massicce iniezioni di liquidità per alcune centinaia di miliardi. Sì, ma in questo momento vanno a scontrarsi con un orientamento completamente diverso. Il Dow Jones perde il 2,5%, però ripeto, la borsa migliore paradossalmente è quella di Londra. Stamattina Tokyo aveva perso l'8%. Ancora la Bank of England è pronta a inserire nel mercato 250 miliardi di sterline, a fornire extra fondi per 250 miliardi di sterline, sono 300 miliardi di euro. La banca svizzera è intervenuta a difesa del franco. Moody's, agenzia di rating, dice ci sarà una prolungata incertezza, possibili effetti sul credito dell'Unione della Gran Bretagna. E poi secondo le varie banche d'affari, Morgan Stanley, Credit Suisse, Goldman Sachs, tutti a dire sarà recessione in Gran Bretagna, un rallento generalizzato di tutta l'economia europea, Morgan Stanley addirittura parla di salto nel buio, adesso occorrono politiche di stimolo monetario e fiscale contro la recessione, ma chissà se magari dopo sta sberla presa dalla Gran Bretagna la Germania si convincerà i paesi del nord ad avere politiche veramente antirecessive, basta con l'ossessione del 3%, del 2% del deficit, in un periodo del genere stai a guardarti la punta dei piedi, anzi a limarti le unghie quando attorno, capito, il corpo si sfalda, ma chissà, perché sapete, i tedeschi ci hanno abituato anche a una certa, come si può dire, stolidità, diciamo non stupidità, stolidità, cioè che vai avanti anche se tutto ti dice sfiga e ti dice che dovresti fare il contrario. E intanto Francoforte comunica che è un centro finanziario stabile, pronto ad abbracciare chi cerca una nuova sede, questo è un po' subito, ma non sono avvoltoi, in questo caso c'è stato un po' di cinismo e di realismo. Francoforte ha fatto sapere che, che è pronta a essere la nuova City, è pronta a abbracciare 10.000 banchieri. Garantiamo la stabilità a differenza della Gran Bretagna, e questa è la concorrenza interna, per carità, sulle piazze finanziarie. Però attenzione, in questo momento più che capire da che cosa succederà sulle piazze finanziarie, ci sono due anni di accordi, in questo momento il dato è prevalentemente politico oltre che borsistico. Poi vedremo gli accordi cosa prevederanno, questa uscita morbida, non morbida dall'Unione Europea, con che trattati, vedremo se l'Europa farà la faccia feroce oppure andrà a trattare, ma in questo momento il tema è principalmente politico. Questa Europa, così come è messa, ha perso un tassello e si espone ancora di più a tutti i venti antieuropeisti. Poi le borse prendono atto che non avevano capito una mazza negli ultimi due giorni, come la maggior parte degli osservatori, è inutile che mi scriviate, lo sappiamo benissimo. E quindi vanno nel panico, e con la freddezza tipica dei mercati finanziari in questi casi vanno a vendere a man bassa. E allora iniziamo da dove? Iniziamo proprio dalle dichiarazioni arrivate dal fronte europeo, e quindi ascoltiamo. In primo luogo, adesso abbiamo una rida di dichiarazioni. Vorrei partire intanto con la parte più simbolica, così ricostruiamo un po' la giornata per chi si fosse appena messo in viaggio, ed è l'ufficializzazione che la Gran Bretagna è fuori dall'Europa. Cameron poi si è dimesso, la volontà del popolo sarà rispettata, ma anche Corbyn, cioè il leader dei laburisti, è in estrema difficoltà. Sentiamo l'annuncio ufficiale dell'esito. The UK has voted to leave the European Union. Yeah! Allora, dicevamo questa mattina tonfo di Hong Kong, ma soprattutto di Tokyo, poi aprono le borse europee e a questo punto va in onda il copione a cui stiamo assistendo, -11,30% praticamente la chiusura adesso a Milano, -7,50% a Parigi, -12% quasi Madrid, -6,40% Francoforte. La sterlina scivola del 10% nei confronti del dollaro, tocca i valori più bassi da 31 anni a questa parte, poi ha recuperato un po', arrivata a -6,-7%. Il Bund tedesco crolla come rendimenti, perché chiaramente si va sui beni rifugio, e il titolo di Stato tedesco a 10 anni è considerato il titolo più sicuro e va a -0,17%. Lo spread con i BTP italiani, anche perché rende sempre meno il Bund tedesco, non perché renda di più il BTP italiano, ma va a 190 punti, poi ritorna a 160 punti. E dicevo, dopo l'annuncio, poco dopo, arrivano le dimissioni di David Cameron. Il popolo britannico ha preso una decisione molto chiara sul nuovo percorso da intraprendere. Alla luce di questo fatto, penso che il paese abbia bisogno di una nuova guida per imboccare questa nuova direzione. Farò tutto quello che è in mio potere come primo ministro per pilotare la nave nelle prossime settimane e mesi, ma non credo che sia giusto per me cercare di essere il capitano che guida il nostro paese verso la prossima destinazione. Non è una decisione che ho preso con leggerezza, ma credo che sia nell'interesse nazionale avere un periodo di stabilità e poi una nuova guida del paese. Andiamo sugli 80s oggi. Allora, sì, devo dire che alcuni ascoltatori scrivono al 349-238-6666 sia su WhatsApp che come SMS. Beh, anche questa volta gli inglesi hanno bastonato i tedeschi. Sì, si può vedere anche in questo modo, cioè che adesso la palla, il cerino passa. La difficoltà più grossa in questo momento, se vogliono ammetterla, è della leadership tedesca, non ne ha beccata una. Angela Merkel si sta, cioè non è solo lei, per carità, qua di grandi leader se ne vedono pochi. Pensate all'autogol di Cameron, alla cavolata estrema che ha compiuto, pensate a Hollande che non riesce a esprimere, diciamo, una posizione francese autonoma e forte. Eppure noi in questi anni abbiamo contribuito. Detto questo, il paese più forte è quello che dovrebbe esprimere, come in una squadra, la leadership, ma non la vuole esprimere, non è capace. Pensa solo a Irlanda, alla Baviera, alla CDU. Allora, intanto poi c'è anche il fronte di cosa succederà alla Gran Bretagna. Qualcuno sta già titolando fine della Gran Bretagna, del United Kingdom, non è più United, perché Scozia e Irlanda hanno detto basta, adesso hanno votato intanto a favore del restare, quindi indiranno un referendum paradossalmente per diventare autonomi, ma per poi entrare o restare in Europa. Quindi spiazza tutti i vari lepenismi, leghismi. Voglio capire come verrà letta sta cosa. Vogliono l'autonomia ma per restare in Europa. La situazione, l'affare si ingrossa, la situazione si complica, poche idee ma confuse. Sentiamo Sturgeon, che è il First Minister di scozzese di Edimburgo. First Minister of Scotland, I have a duty to respond. Come primo ministro della Scozia, ho il dovere di affrontare non solo quanto è stato deciso nel Regno Unito, ma anche e soprattutto quanto deciso democraticamente dagli scozzesi. Stando così le cose, la Scozia deve affrontare la prospettiva di essere portata fuori dall'Unione Europea contro la sua volontà. Penso che sia democraticamente inaccettabile. Non c'è dubbio che il risultato di ieri rappresenti un considerevole cambiamento delle circostanze in cui la Scozia ha votato contro l'indipendenza nel 2014. Il mio compito ora è agire in modo responsabile e nell'interesse di tutta la Scozia. Questo è ciò che intendo fare. Beh, c'è anche chi festeggia, Boris Johnson, che dice: sono dispiaciuto per le dimissioni di Cameron. Così Ken il Rosso. I want to begin this morning by paying tribute to David Cameron, who is. Innanzitutto vorrei fare un omaggio a David Cameron, che ha parlato questa mattina da Downing Street. Voglio esprimere la mia tristezza per la sua decisione di fare un passo indietro, ma ovviamente la rispetto. Conosco Cameron da molto tempo. Penso che sia uno dei politici più straordinari del nostro tempo. È stato il suo coraggio a dare al paese il primo referendum sull'Unione Europea in 43 anni. È stata la prima volta per molti di noi di esprimersi su questa questione che riguarda le persone, il loro diritto di decidere il proprio destino. Si tratta del principio fondamentale della democrazia. Ora, non c'è bisogno di agire con la fretta, niente cambierà nel breve termine e non c'è bisogno di invocare l'articolo 50. A quanti sono preoccupati, sia qui che all'estero, dico che il Regno Unito non sarà meno unito e non sarà meno europeo. Mi rivolgo ai milioni che non hanno votato per questo risultato, specialmente ai giovani che potrebbero pensare che verranno costruiti ponti o ci sarà più isolazionismo. Penso invece che sia vero l'opposto. Non possiamo voltare le spalle all'Europa. Siamo parte dell'Europa. We cannot turn our backs on Europe. We are part of Europe. Allora, invece Nigel Farage che canta vittoria, è l'Independence Day, la vittoria della gente comune. Dico una cosa sulla cavolata di Cameron. Allora, uno può pensarla come vuole sul ricorso al referendum, come dicono, grande elemento di democrazia. Personalmente sostengo che il referendum su elementi di carattere, sui valori, su ciò che sono scelte che non competono alla politica, vadano benissimo. Quando tu devi, hai firmato un accordo con l'Unione Europea e lo sottoponi a referendum solo perché vuoi in qualche modo liberarti, rafforzarti della tua, liberarti da corrente minoritaria dentro i conservatori, rafforzare il dominio dei conservatori, e fallisci completamente l'obiettivo, ti dimetti, hai fatto una cavolata dal punto di vista politico. Dopodiché ritengo anche che su temi così delicati, che sono di prevalenza della politica, tu vai a votare, deleghi il politico affinché gestisca lui i rapporti con l'Unione Europea. Non mi chiedi di votare non avendo io tutte le informazioni. Poi uno può dire: ah, ma è una posizione elitaria. Io ritengo che sui problemi di coscienza, aborto, divorzio, unioni civili, cioè, sia giusto ricorrere al referendum, laddove la politica non può sostituirsi alla coscienza dei cittadini. Ma quando si tratta di gestire rapporti internazionali, relazioni istituzionali e internazionali, Beh, la politica non può fare l'accordo e poi girarsi e dire però vi faccio fare anche il referendum così mi sistemi i miei avversari interni, poi sbagli tutto e mandi la Gran Bretagna nel caos e il resto dell'Europa nel caos. Mi sembra che non stia facendo il suo lavoro, è come un meccanico che chiedesse a te di pulire il filtro dell'aria. Io ti pago per questo, ti eleggo per questo. Poi uno può non essere d'accordo e può ritenere che ci voglia la democrazia, tipo agorà, per ogni decisione della politica andiamo a votare, per carità. Allora, dicevo, Nigel Farage è la vittoria della gente comune. The dawn is breaking on an independent United Kingdom. Sta spuntando l'alba su un regno unito indipendente. Sarà la vittoria della gente vera, la vittoria della gente comune, la vittoria della gente per bene. Abbiamo lottato contro le multinazionali, abbiamo lottato contro le grandi banche d'affari, contro la grande politica, contro la menzogna, la corruzione e l'inganno. Oggi l'onestà, la decenza e la fiducia nella nazione vincono. Ce l'abbiamo fatta non solo per noi stessi, ce l'abbiamo fatta per l'intera Europa. Spero che questa vittoria faccia tramontare il fallito progetto europeo e che ci conduca a un'Europa di stati nazionali sovrani che negozino insieme, che siano amici e che cooperino. Sbarazziamoci della bandiera, dell'inno, di Bruxelles e di tutto ciò che è andato storto. Che il 23 giugno sia, nella nostra storia, il giorno della nostra indipendenza. In our history, as our Independence Day. London's burning. London's burning. All across the town, all across the night. Beh, se non mettiamo i Sex Pistols e i Clash oggi, torniamo al periodo punk, non so quando potremmo metterli. Adriana Ceretelli, buonasera. Buonasera. Non ti chiedo un commento sulle nostre basi musicali, tanto oggi andiamo ho di... Ho la testa altrove. Hai la testa altrove. Sì. Adriana Ceretelli, per chi non lo sapesse, editorialista sulle 24 ore sui temi europei. E ringrazio anche il gestore che deve aiutarci a capire, ammesso che questa storia un senso ce l'abbia in borsa, così parafrasiamo anche Vasco Rossi, il meno 12% con cui è chiuso adesso Milano, il peggior dato dell'81, meno, vi do solo i dati dei bancari, meno 23% Unicredit, meno 22,5% Intesa San Paolo, poi tutto il resto diciamo. Lo commenteremo, però Adriana, da dove partiamo? Ascoltiamo Juncker, Presidente della Commissione Europea, l'accordo raggiunto in precedenza, lo ha chiarito Juncker, cessa di esistere, l'accordo firmato dalla Gran Bretagna nel vertice dello scorso 19 febbraio, quello che poi Cameron volle sottoporre al referendum per far fuori i suoi avversari interni, cessa di esistere, Juncker. Until this process of negotiations is over, fino a che non finisce il percorso dei negoziati, il Regno Unito resta un membro dell'Unione Europea con tutti i diritti e tutti i doveri che comporta questa appartenenza. In accordo con i trattati formati dal Regno Unito, la legge europea continua a essere valida nel Regno Unito finché non sarà più un membro dell'Unione. L'accordo firmato tra Unione Europea e il Regno Unito a febbraio non entrerà in vigore e cessa di esistere. Will now not take effect and ceases to exist. Allora, Angela Merkel dice un taglio netto per l'Europa, ma serve analisi calma e composta. L'Unione Europea è forte e darà la risposta giusta, ma contenta la signora Merkel. Tra l'altro già ci si sta chiedendo come riassegnare il portafoglio del commissario del Regno Unito, Jonathan Hill, che ha la stabilità finanziaria. Ha detto che insomma, l'hanno chiesto il PPE, i popolari europei e i liberali. Allora, che la domanda è banale, ma insomma, è ancora sotto shock Bruxelles? Sì, direi che è sotto shock l'Europa e in parte il mondo intero. Cioè l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione è un colpo anche all'ordine mondiale, non solo all'ordine europeo. La Gran Bretagna è uno dei grandi paesi del G7 e naturalmente ci resterà nel G7, ma il fatto che esca dall'Europa sbilancia l'Europa. Per esempio, io mi chiedo Putin se non sarà molto felice di tutto ciò, visto che ha sempre desiderato che in qualche modo l'Europa si indebolisse e non si rafforzasse. Questo per dirne una, ma poi comunque l'Europa in sé si sbilancia al proprio interno, perché l'Inghilterra nonostante per certi aspetti fosse un partner scomodo, dall'altro era anche un partner molto efficiente. Non ci dimentichiamo che il mercato unico è nato sotto spinta degli inglesi e in parte, diciamo, forgiato dagli inglesi, dall'allora commissario Lord Cofield, per esempio, che fu mandato dalla Thatcher per essere il suo proconsole anti-europeo e poi si convertì all'europeismo e litigò con la Thatcher. Questo per dire, ma poi tutte, diciamo, le spinte alla modernizzazione dell'Europa, della sua economia, alla revisione del modello di economia sociale di mercato, voglio dire, non si è fatto molto naturalmente sotto la loro spinta, ma è stato un pungolo, uno stimolo, una protagonista che diversificava la cultura economica europea. Quindi, senza contare le spinte all'integrazione finanziaria, per esempio, cosa succederà oggi dell'unione, del progetto di unione del mercato dei capitali? Questa è una domanda che noi europei ci dovremmo porre. Quindi, insomma, secondo me è una grossa perdita ed è un elemento di destabilizzazione e di squilibrio dentro l'Europa. Quindi, cioè, lo so che ci sono quelli che dicono: oh, meno male che così vanno. No, io sto vedendo. E noi, eccetera. Io sto vorrei rispondere solo al tema del referendum. Allora, scusatemi, da un punto di vista politico, che Cameron abbia fatto una cavolata per sé è fuori discussione, tant'è che si è dimesso. Lui, dopo aver firmato gli accordi il 19 febbraio, in cui venivano concesse tante cose alla Gran Bretagna, addirittura lo statuto speciale, per cui continuava questa tradizione di ritenere la Gran Bretagna, diciamo, avere un rapporto privilegiato e speciale, è tornato in Gran Bretagna e ha detto: avete visto che bravo che sono stato, ho ottenuto lo statuto speciale, adesso voglio l'investimento elettorale, andiamo a referendum così io vincerò e a questo punto mi ripropongo come candidato dei conservatori e a guida del paese. Questo è stato il ragionamento di Cameron, che si è rivelato una grandissima cavolata. Ok, dopodiché uno può essere d'accordo che si faccia un referendum su un tema così politico, così delicato, su cui tutti i cittadini devono essere molto informati, oppure può essere dell'idea che questo tema dei rapporti tra uno Stato e Unione Europea o uno Stato e l'altro Stato non possa essere lasciato in mano semplicemente alla pancia del paese. Sono idee diverse, io personalmente ritengo che siano temi molto delicati su cui votare, ma che Cameron abbia fatto la cavolata della sua vita, tant'è che si è dimesso, mi sembra che su questo possiamo essere tutti d'accordo. Meteo, pubblicità, resta con noi Adriana, perché poi vorrei capire con Andrea Cuturi, vicepresidente di Antiel SGR, insomma, che cosa dobbiamo aspettarci a sto punto lunedì, un mega rimbalzo oppure il rimbalzo del gatto morto. 349 del Death Cat, visto che siamo in tema, 349-238-6666 per sms e whatsapp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. State ascoltando un programma offerto da... Se nella tua azienda c'è Inaz, c'è solo il bello del lavoro. www.inaz.it Focus Economia. London's Berlin! Allora, non voglio tornare sulla cavolata di Cameron nel fare il referendum. Adriana Ceretelli, adesso la palla a chi passa, poi ascolteremo nella seconda ora sia il professor Tremonti, l'ex ministro Tremonti, che l'ex primo ministro Romano Prodi, che saranno i nostri ospiti. La palla a chi passa, lunedì incontro ristretto, e che cosa ti aspetti che sia la reazione di Bruxelles? In qualche modo la reazione di Bruxelles c'è stata oggi. Bruxelles in sostanza dice: se sei fuori, sei fuori, e bisogna più presto cercare di avviare i negoziati per questo divorzio e chiudere la partita, senza immaginare che Brexit possa fare riaprire dei negoziati, come hanno sempre auspicato coloro appunto che si sono battuti per l'uscita della Gran Bretagna. Cioè, in sostanza, l'Europa, il segnale che dà è: non drammatizziamo, facciamo un divorzio composto, e facciamolo presto. Perché? Perché l'Europa non vuole, o perlomeno tenta di evitare che il contagio britannico possa estendersi anche ad altri paesi, anche perché la situazione, diciamo, la sindrome Brexit non è solo inglese, è una sindrome che è diffusa in diversi paesi. E quindi si vuole evitare che, per esempio, il contagio arrivi in Francia, dove Marine Le Pen naturalmente è trionfante, in Olanda, dove Geert Wilders, che è il capo degli euroscettici, e diciamo promotore dell'uscita dell'Olanda non possono appunto essere tentati da mosse analoghe. Questo per citare i paesi più importanti, ma naturalmente non so, pensiamo all'Austria, anche lì spinte centrifughe in Finlandia pure, certo. Insomma, per cui c'è un po' dunque, qui la preoccupazione dell'Europa è da una parte di diciamo divorzio tranquillo, composto, cercare di niente concessioni che non siano quelle diciamo proprio previste dal trattato e basta, e poi appunto contenere l'effetto domino a tutti i costi. Naturalmente non è detto che le cose vadano come si vorrebbe, prima di tutto perché il divorzio sarà complicatissimo, nel senso che il trattato e l'articolo 50, famoso per quello che consente la successione, è un articolo generico e quindi non ci sono precedenti, e quindi i negoziati andranno un po' in terra incognita, non si sa, e poi molto spesso il diavolo è nel dettaglio quando si cominciano diciamo a smantellare rapporti di interdipendenza economica, finanziaria, legislativa che perdurano da oltre 40 certo. anni. Quindi sarà un po' tutta una scoperta questo negoziato, tenendo conto che l'apertura di molti dossier potrà scatenare rivendicazioni da parte di altri paesi, cioè richieste di concessioni. Quindi, e in più alla fine si dovrà decidere all'unanimità, quindi diciamo la partita è assolutamente molto molto molto complessa. Sì, io non so neanche, non sono così convinto che questi leader europei la sappiano giocare. Qualcuno mi dice dovrebbe dimettersi anche Juncker. Boh, no, però che Juncker sia un leader su cui abbiamo espresso moltissimi dubbi, con quel piano tutto fuffa per sviluppare 300 miliardi di investimenti privati, che sia il presidente, è stato per tanti anni del Lussemburgo, cioè che rappresentanza politica ha quest'uomo, e che voglio dire sia telecomando la Germania, l'abbiamo spiegato in tempi non sospetti. Io ne ringrazio tanto con Adriano Ceretelli, ci risentiremo lunedì, martedì, perché l'Europa adesso dovrà, al di là di queste battute, dovrà riorganizzarsi. Faccio notare un ascoltatore però che mi scrive, guardi che 20 anni fa si andava in Gran Bretagna tranquillamente, guardi che 20 anni fa la Gran Bretagna era nell'Unione Europea, cioè non è uscita dall'euro dove non è mai entrata, è uscita dall'Unione Europea, quindi lei per intenderci farà la fila quella diciamo di tutti gli altri, ok, mentre fino adesso in aeroporto faceva la fila di EU citizen, ok? Quindi 20 anni fa lei faceva EU citizen, c'era scritto comunità europea anche sul passaporto dei britannici, invece adesso non ci sarà più scritto, quindi saranno come tanti paesi che non fanno parte dell'Unione Europea, come andare in Russia, come andare in Marocco, come andare in Turchia, ok? Andrea Cuturi, al di là della giornata di oggi, adesso do la lista della spesa, una lista terrificante. Banca BPR, Popolare Emilia Romagna meno 24,61%, Popolare Milano meno 24,28%, Unicredit meno 23,80%, Banco Popolare meno 23,30%, Intesa San Paolo meno 23%, Mediobanca meno 21%, Ubibanca meno 20%, Unipol meno 18%, Mediaset meno 17% come le generali, il 16% l'hanno perso Telecom Italia e Monte dei Paschi, il 15% il calo di Mediolanum, il 13% di Azimut, il 12% di Prismian e di Leonardo Finmeccanica, il 10% l'ha perso Saipem, Unipolsai, Exor ed Enel. Mi fermo con chi ha perso diciamo il 9%, tra l'8 e il 9%, ossia Fiat Chrysler meno 9,30%, Eni meno 9,20%, Atlantia meno 9% come Moncler, e poi Buzzi Unice meno 8% come le Poste Italiane, il 7,5% lo perde Ferragamo e CNH Industrial. Il miglior titolo, Italcementi, perde solo lo 0,60%, l'indice ha perso il 12,5%, peggior calo dal 1981. Cosa ci aspettiamo lunedì, Cuturi? Lunedì è ancora molto lontano, perché ci sono le elezioni spagnole nel fine esatto, e noi siamo riusciti a doppiare anche la Spagna in performance. L'Italia chiude a meno 12,48, la Spagna a meno 12,22. Lunedì è lontano, ci sono ancora le chiusure dell'America, c'è tutta l'Asia di lunedì mattina. Quando succedono cose come queste, diciamo, le correlazioni tra le varie asset class salgono in modo esponenziale, quindi i movimenti sono corali. Oggi sono state vendute pesantemente quelli che sono ritenuti gli anelli deboli dell'Unione Europea, l'Italia e la Spagna, ma in parte anche la Francia, che perde l'8%. Io dico che questo può essere l'inizio della fine, spiego. Intanto condivido alcuni commenti sulla Gran Bretagna. La Gran Bretagna è nel disordine più assoluto dal punto di vista istituzionale. Potrebbe essere l'inizio della fine della Gran Bretagna, visto che gli scozzesi già si stanno muovendo per fare delle cose. E anche gli irlandesi. Ed è un paradosso, perché ricordiamoci che 2 anni fa gli scozzesi volevano separarsi dalla Gran Bretagna, non da quindi volevano essere indipendenti in tutto e per tutto. Oggi invece vogliono tornare con l'Unione Europea. C'è un problema macroscopico di leadership politica, sia da una parte Tory, sia dalla parte dei laburisti. Il leader dei laburisti è un fantasma che cammina in questi giorni. Quindi ho come l'impressione che l'Inghilterra abbia dei problemi seri. Ce l'ha anche l'Europa, questo è chiarissimo. E io dico che noi abbiamo tra i 6 e i 9 mesi, abbiamo una finestra di 6-9 mesi per cambiare marcia con i leader che abbiamo, quindi con Renzi, con la Merkel, con Hollande, senza passare attraverso delle elezioni, che ci saranno comunque in primavera prossima, a iniziare con quelle francesi, ma sarebbe tardi agire dopo quelle elezioni. C'è bisogno di un cambio di passo, c'è bisogno di un'Europa che diventi più forte, più piccola, benissimo. Dal punto di vista dei numeri andiamo a guadagnare qualcosa, nel senso che l'accordo di febbraio a noi europei ci costava tantissimo per l'Inghilterra, quindi esce un contributore importante, ma diciamo, a questo punto noi mediterranei con la Germania abbiamo una, diciamo, un budget da condividere più importante. Mi dici solo una cosa, Couturi, perché la Borsa di Londra oggi ha perso solo... Il 2,76%, mentre Parigi ha perso l'8%, Milano il 22%, il 12%, e il 12% l'ha perso anche Madrid? Te lo spiego subito: il 70% del fatturato e altrettanto degli utili delle aziende inglesi sono fatti all'estero, quindi in valuta che ha guadagnato diversi punti percentuali. Ah, perché il pound ha perso circa il 7%. Esattamente. Loro fanno i loro bilanci in pound, ma vendono in euro, vendono in dollari, vendono in rubli. E quindi il loro, diciamo, okay. I conti delle aziende inglesi ne vanno in qualche modo a beneficiare. Couturi, grazie, perché tanto oggi altri commenti non ne posso fare, nel senso che poi vedremo lunedì, ma lei, ho capito i tempi che si dà alla finanza, 6 mesi, 9 mesi, senza arrivare alle elezioni francesi, tedesche, forse anche italiane, vedremo, c'è pure il nostro referendum a ottobre. Intanto questo weekend vota la Spagna, dopo il traffico l'uccellaccio prima di Tremonti e Prodi, e l'uccellaccio era d'obbligo. Focus Economia. Se chi non lo sapesse, questa è la canzone che i bambini piccoli in Inghilterra imparano, in Gran Bretagna, nelle scuole. Il ponte di Londra sta cadendo, qua più che London Bridge è caduto il bridge tra Gran Bretagna e Europa, e con una canzoncina che nulla ricorda i Carmina Burana, accolgo invece il nostro uccellaccio. Dove sta volando, professor Giulio Sapelli? Buonasera. Sto volando sulla Manica, amico mio. Non avevo dubbi. Come non potevo volare? Ma verso l'Europa o verso la Gran Bretagna? Verso punto? La Gran Bretagna, perché mi interessa vedere il popolo britannico gioire e festeggiare la sua liberazione. E lei sta gioendo e festeggiando, mi sembra di capire. No, io non gioisco e festeggio, perché io sono al di sopra degli eventi, sono gli eventi, perché sono lo spirito assoluto di Hegel, quindi guardo il mondo che si svolge dietro di noi e vedo le grandi, sento soprattutto le enormi stupidaggini che si dicono. Mi dica. No, per esempio, legge sembra che tutto sia colpa degli inglesi. No, noi abbiamo detto che c'è una responsabilità della leadership o dell'assenza di leadership europea. Sì. Con lei facciamo una puntata il 30 dicembre per dire che la Germania, il paese più forte, non riusciva a esprimere leadership. Ma lei non è il mondo. Ma no, ha ragione, ci mancherebbe. Lei è una parte molto importante del mondo, ma lo spirito assoluto si realizza all'infinito, non può realizzarsi solo in lei, ma un'infinità di altri punti. Lei ha sempre detto delle cose molto giuste. No, diciamo che quando uno tira troppo la corda, a un certo punto la corda si spezza, perché bisogna anche dire, cosa che non ha detto nessuno, per molti versi il Regno Unito aveva già conquistato, su punti fondamentali che lei ha sempre ricordato, la libera circolazione delle persone, il problema della governance, per esempio, della vendita dei derivati, che poteva fare in clearing house, in luoghi oscuri dove non dovevano entrare le regole europee, poi solo recentemente un anno fa circa la Corte Suprema l'ha condannati a dover entrare in Europa e sottoporsi alle regole europee. Poi Cameron ha di nuovo negoziato attraverso il suo rappresentante dei mercati finanziari, che loro in inglese, una serie di manovre e di possibilità di azione molto molto vasta. La questione fondamentale, quindi, secondo me, se posso permettermi, non è economica, perché l'Inghilterra usava già l'Europa per quanto gli serviva, conveniva, certo, come ha detto molto giustamente il suo interlocutore prima, no? Quindi voglio dire, giocava sui cambi come gli pareva e guadagnava. Il problema è una questione politica, ah, certo, perché non si può governare i popoli per 20 anni tecnocraticamente, non si può calpestare il principio parlamentare e parlare di unità dell'Europa. Ma quale Europa? Pensi che arrivavamo al punto di voler fare un ministro delle finanze senza che fosse eletto dal popolo? Ma quindi gli inglesi, in Inghilterra è nata la Magna Carta, ragazzi, è nata nel 1300, i baroni hanno imposto al re di concedere loro delle libertà fondamentali. Quindi questa cosa qui, che gli inglesi si sottoponessero continuamente a questo refrain di cui bisognava unificare l'Europa tecnocraticamente senza sottoporla a un voto popolare, perché tutti sanno che il Parlamento, anche qui lei ha ragione, l'ha ricordato molte volte, il Parlamento europeo non conta assolutamente nulla, conta la Commissione. E poi c'è un altro fatto economico. Se sì, purtroppo, se uno legge il Corriere della Sera, è un po' meno La Stampa, che è un po' più autonoma dal dominio tedesco, e Il Sole anche, ma se si leggono gli economisti inglesi hanno una paura terribile della deflazione e della stagnazione secolare imposta, come abbiamo ricordato, come lei ha giustamente detto in quella trasmissione, come lei sottolinea, imposta dall'ordoliberalismo tedesco. Mm-hmm. Per cui questa deflazione, che come lei sa bene preoccupa anche molto bene molto gli Stati Uniti, mi ha colpito molto ad esempio la dichiarazione della Lagarde col Fondo Monetario Internazionale, mentre quelle due persone impresentabili che sono Juncker e la Merkel permettono di dire, no, guardi, la Merkel è impresentabile, che si permettono di dire a un popolo come quello inglese, se siete fuori, ma come, ma cosa stai dicendo? Non si ricordano Benjamin Constant e Madame de Stael come parlavano l'Inghilterra? Loro, uno che viene inseguito dai finanzieri di tutto il mondo, signor Juncker, e l'altra la Merkel, che era l'unica figlia di un pastore luterano a essere ammessa all'Accademia delle Scienze, perché il padre, questo ormai è storia, era un collaboratore della Stasi, lei che ha condannato Kohl con un'intervista sulla Frankfurter Allgemeine. Ma come si permette di dire agli inglesi fuori? Ha dovuto intervenire gli Stati Uniti per bocca della Lagarde e di dirgli, ci auguriamo che tra l'UE e il Regno Unito ci sia al più presto una sistemazione di regole per favorire. Allora, professore Sapelli, facciamo così: lei voli verso Dover, bianche scogliere di Dover, e noi ci risentiamo anche lunedì, perché tanto qua è appena iniziato. Io lo dico, la musichetta dei bambini inglesi mi va benissimo. London Bridge is falling down. Vediamo cosa succede al resto d'Europa. Intanto, grazie a Giulio Sapelli, ho capito benissimo, sono molto d'accordo con molte cose che ha detto, e adesso vediamo la grande capacità di leadership di Angela Merkel e del ex presidente del Consiglio lussemburghese Juncker. Però c'è il GR24 con tutti gli aggiornamenti, poi ascoltiamo anche, so che poi alcuni li contestano, da una parte avremo Romano Prodi, dall'altra Giulio Tremonti, proprio su quello che è successo dopo il GR24. 349 238. Il segnale orario vi è offerto da Assicom, vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. State ascoltando un programma offerto da Se nella tua azienda c'è Inaz, c'è solo il bello del lavoro. www.inaz.it. Focus Economia. Allora, di nuovo in diretta con Focus Economia, con Sebastiano Barisoni, per questa lunghissima giornata, nottata, inutile continuare a ripeterlo, e tralasciamo anche questa devastante giornata per i mercati, abbiamo detto, insomma, poi vedremo lunedì se è a mente più fredda si riuscirà anche a recuperare qualche posizione. Vorrei aprire, se così possibile, il ragionamento, al di là di quanto detto poco fa da Giulio Sapelli, insomma, che è favorevole alla Brexit, ma ragionare sugli sviluppi futuri. Lo vorrei farlo con due politici italiani, ex politici italiani ed economisti. Da un lato, infatti, ringrazio il professor Romano Prodi, ex presidente del Consiglio dal 96 al 98 e poi dal 2006 al 2008 ed ex presidente della Commissione Europea. Buonasera, professor Prodi. Buonasera a lei, Margioni. E dall'altro grazie anche al professor Giulio Tremonti, non ho bisogno di presentarlo, comunque ricordo, ministro alle finanze del governo Berlusconi 94-95, all'economia e alle finanze nei governi Berlusconi 2001-2004 e Berlusconi il terzo governo 2005-2006, il quarto governo 2008-2011, che è appena uscito con un libro che sembra profetico, ma l'ha scritto prima di stanotte, casa editrice Mondadori, si chiama Mundus Furiosus, il riscatto degli stati e la fine della lunga incertezza. Buonasera anche a lei, Tremonti. Buonasera a voi. Allora, intanto ditemi una cosa, flash, poi andiamo a ragionare su qualcosa di più articolato. Professor Prodi, se lo immaginava, sì o no? No, ma non che io sappia fare le previsioni, perché non è il mio mestiere, ma siccome gli scommettitori scommettevano per il non Brexit, io dico, di solito ci prendono. Professor Tremonti? Ma che gli scommettitori inglesi, trattandosi dei soldi loro o dintorni, di solito ci prendano, è vero, anch'io pensavo che ci avessero preso. Poi una cascata di fenomeni ancora ignoti, o forse resteranno sempre ignoti, ha portato al risultato opposto. Detto questo, i popoli hanno sempre ragione. Oh, veniamo ai popoli. Allora, la cosa che mi impressiona, professor Tremonti, poi possiamo fare qualunque ragionamento, adesso stiamo già preparando servizi e analisi sulla Spagna, sulla Frexit, perché si dice che il prossimo potrebbe essere la Francia, cosa capiterà negli Stati Uniti con Trump, se Trump riceverà addirittura un abbrivio da quanto capitato in Gran Bretagna. Però restiamo un attimo sul voto. Insomma, ormai i dati sono certi, il 64% di chi ha tra i 18 e i 24 anni ha votato per restare, il 45% di chi ha tra i 25 e i 49 anni ha votato per restare. Poi le proporzioni si invertono nettamente tra chi ha più di 50 anni, dove il 60% quasi ha votato per andarsene. Ora, professor Tremonti, i popoli decidono, ma è strano vedere che il popolo più anziano, cioè quello che teoricamente ha conosciuto le memorie della Seconda Guerra Mondiale, di un'Europa disgregata, vota per uscire, e i giovani che sono cresciuti già con l'Europa e potrebbero essere quelli più tentati a dire beh, vediamo cosa capita senza Europa, hanno votato in stragrande maggioranza per restare. Credo che ci siano state tante cause. Allora, la prima è che in Inghilterra ce ne sono due, Londra e il resto del paese. Londra è cosmopolita, miliardaria, fantastica, globale, e il resto dell'Inghilterra è molto diverso. Si ricorda, come dire, Downton Abbey, che non è solo i nobili, ma quel vecchio mondo delle campagne, la cosa più seguita in Inghilterra. Secondo, per 30 anni la stampa, forse di più, la stampa popolare inglese ha sparato, quella popolare, ma quella che fa l'opinione dei popoli, ha sparato contro l'Europa. Ha torto, ha ragione, ma è un dato di fatto. Se aggiungi la crisi che pesa asimmetricamente pochissimo su Londra, che è in pieno boom, e invece piuttosto sul resto dell'Europa, dell'Inghilterra, probabilmente c'hai alcuni dei fatti che hanno portato a votare contro. Che poi siano solo i giovani a favore, solo i vecchi contro, tenga conto che poi sono vecchi relativi, cioè la guerra è finita nel 45. Questo ora, ci mancherebbe. Cioè, insomma, non credo che la memoria della guerra. Tra l'altro l'Inghilterra ha una storia che non è solo europea, entra in Europa molto dopo, prima aveva la sua area economica. Lei in questo libro, Tremonti, ripercorre anche vari, diciamo, mondus furiosus. Qui però non può riguardare quasi quello che capitò, adesso, mutatis mutandis, con Edoardo VIII, quando si ripudiò la Chiesa Cattolica e scisse, diciamo, sostanzialmente lo scisma anglicano e staccò la Gran Bretagna, a quel tempo fermamente inserita nel circuito europeo dal resto d'Europa. Non le ricordo un po' questo? O oso troppo? Io questo, il libro Nel Cinquecento l'Europa si autodefiniva Mundus Furiosus, gli spazi atlantici, la stampa che era internet di allora, idee, comunque sia, vengono inventate nuove religioni come application per lo sfruttamento commerciale delle Americhe. Io volevo mettere dentro anche questa storia che l'Inghilterra a un certo punto, Edoardo, manda via l'Europa che sentiva, la Chiesa romana che sentiva un po' come l'Europa di adesso, porta via i soldi ai conventi e comincia a fare la navigazione. Non l'ho messo dentro perché mi faceva, come dire, impressione e quindi era forse eccessivo, ma certamente noi viviamo in un tempo di enorme complicazione e ovviamente nel mondo le migrazioni, non immigrazioni, migrazioni, le guerre più o meno coloniali, le rivoluzioni digitali che distruggono il ceto medio, la finanza che come dire, mi sembra una macchina che va all'incontrario rispetto al benessere e al buon senso e poi la crisi dell'Europa. Sto parlando troppo, ma vorrei dire questo e credo che sia il momento in cui devi capire le cause della crisi dell'Europa, cercare di capire, senza dare la colpa a nessuno. Siamo in una fase in cui è meglio tutti insieme cercare di capire, poi magari sbagli, ma insomma. Io ho visto in 20 anni, gli ultimi 20 anni, quattro fatti, ciascuno dei quali isolatamente poteva essere anche straordinario e positivo, ma tutti insieme cumulati hanno portato alla realtà che c'è adesso. L'allargamento, che ha fatto diventare l'Europa un'entità politica, era un'utopia, un mito, certamente è uscita dal mitico MEC ed è diventata un corpo politico. Secondo, la globalizzazione, noi facevamo il mercato perfetto e fuori c'erano economie di comando, monopoli, oligopoli, comunque non si è capito abbastanza che il problema non era più fare il mercato unico europeo e che l'Europa non era più l'unico mercato. Terzo, l'euro, che comunque è il primo caso nella storia di moneta senza governi e governi senza moneta, e infine la crisi, che non è scritta nei trattati. Quando si è posta la questione di gestirla, non c'erano gli strumenti di trattato, sono venuti dopo, perché nel trattato la crisi non è prevista, positivo e progressivo. Tutto insieme ci ha portato alla situazione che c'è adesso. Allora, dopo l'informazione sul traffico, vorrei sentire anche il professor Prodi su questo, perché da un lato mi interessa capire come mai ci siamo arrivati, ammettendo anche qualche responsabilità. Voglio dire, voi siete stati ministro delle finanze e dell'economia di un paese fondamentale, fondatore dell'Europa, o presidente del Consiglio, o presidente della Commissione Europea. Beh, forse un po' di responsabilità, è vero che nessuno, non è il momento di darle colpe, però come lentamente l'Europa sia andata in questa deriva, insomma, quando io mi sono laureato tutti i paesi facevano la gara a entrare in Europa, era la cosa più cool, più figa, si può dire, era da essere dentro l'Unione Europea. Adesso siamo alla fuga opposta, tutti fanno la gara, diciamo, a uscire da questa Europa, o vorrebbero uscire da questa Europa, e poi anche capire cosa succederà nello specifico a Gran Bretagna e rapporti con l'Unione Europea. Dopo il traffico ancora un minuto, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Di nuovo in diretta per l'ultima parte di Focus Economia. Dunque, professor Prodi, poco fa Tremonti ha detto, insomma, i quattro elementi assieme hanno creato, diciamo, il caos, lo aggiungo io, la situazione di deriva in cui siamo precipitati. Allargamento, diciamo, dell'Europa, la globalizzazione, l'euro e la crisi. Chiaramente non tutti assieme, ma si sono sviluppati uno dopo l'altro. Vorrei capire se è d'accordo e vorrei però anche iniziare a ragionare con voi su che cosa avete sbagliato, ma non voi due e basta, ma insomma, evidentemente la leadership europea non c'è. Con lei molte volte abbiamo detto, ma insomma, se la Germania è il paese leader economico di questa Europa, deve essere esercitarla anche questa leadership, perché uno si gira, professore, e vede che dopo 8 anni di trazione tedesca siamo l'area che è cresciuta meno e si è beccata la seconda recessione, l'area che si sta disintegrando, ci siamo incagliati per 3 anni sulla Grecia, stampiamo euro ma a differenza degli Stati Uniti non li assorbiamo con investimenti pubblici. Adesso, al di là delle responsabilità degli inglesi, di cui vi chiederò fra un attimo, non c'è anche una riflessione che le elite cosiddette europee devono fare per dire come cavolo abbiamo fatto arrivare in questa situazione? tre monti ha messo insieme due fasi diverse, una fase di espansione, di speranza, di forza, come era quella dell'allargamento, in cui tutti volevano venire in Europa e noi abbiamo preso il treno della storia, perché era il momento di farlo, e poi una fase in cui i governi europei hanno voluto riassumere in se stesse il potere di decisione e la Commissione ha ceduto, cioè è cambiata la faccia dell'Europa, non è la colpa di nessuno, il potere di decisione non ce l'ha più la Commissione. Ma vi accorgete o no che quando andiamo alla televisione oggi non appare mai la Commissione, è sempre la riunione del Consiglio che viene data, è totalmente diverso da quello che era 10-15 anni fa. E quindi a questo punto la responsabilità è passata agli Stati, poi è intervenuta la crisi ad aggravare la situazione, il cambio delle tecnologie oltre che alla globalizzazione, ma in Europa in particolare il problema è che non c'è più il potere sovranazionale, c'è il potere dei singoli paesi. In più un'altra complicazione, che mentre prima c'era un equilibrio con dei compromessi fra diversi paesi, adesso c'è un solo paese che si chiama Germania. Quindi il problema è che il potere ha cambiato sede, tutto qua purtroppo. E allora o la Germania si convince di esercitare una leadership nell'interesse di tutti o andiamo a finire male. Io sono convintissimo che sotto questo aspetto il Brexit sia utile e sono convintissimo utile. Che lunedì, sì, nel senso che la Germania a questo punto ha le corde, cioè è in mano della Germania l'esistenza stessa dell'Europa, no? E quindi deve decidere, e secondo me la Germania decide per il sì, perché senza l'Europa la Germania nei pasticci ancora di più. Allora, rapidissimi, professor Tremonti, che cosa capiterà adesso alla Gran Bretagna? Il danno economico stimato, se vedremo quanto ci metteranno, e che cosa dovrebbe fare adesso l'Europa come scatto, se vogliamo, ammesso che abbia le forze per, diciamo, per dare uno scatto, un colpo di reni? Dunque, io, come dire, lei ha detto responsabilità, colpe, per la verità, qui vorrei dire, essendo stato sempre considerato euroscettico, nel 2003 ho proposto di fare gli Eurobond e sì, fu detto di no. Nel 2010 ho riproposto insieme a Juncker gli Eurobond, questa volta per contrastare la speculazione, fu detto di no. L'idea del Fondo Europeo del 2008 è una proposta italiana. L'idea di introdurre regole sulla finanza sono tutte, devo dire, proposte italiane. Purtroppo non è che un ministro può contrastare 26, 27, 28 quando il blocco è diverso. Quindi se il problema è chi ha previsto e così via, io mi sento abbastanza dalla parte. Detto questo, chiuso e vediamo al futuro. Sono assolutamente d'accordo con quello che dice sulla Germania, sul futuro, il professor Prodi. Al congresso di Vienna 1815 l'ambasciatore di Prussia ha detto: stati attenti alla Germania unita, fantastica per la filosofia, la musica, la letteratura, ma politicamente diventa un qualcosa che complica la struttura dell'Europa. Ed è vero, la Germania unita ha cambiato la curva. Andreotti disse: vogliamo così bene la Germania che ci piace averne due ai tempi, se non ricordo male. Però. Sì, Churchill ne voleva tante quante Länder e tutti agricoli. Detto questo, cosa penso che sia... Va detto anche che in una situazione che diventa sempre più difficile, se vuole anche per certi versi tragica, tu non puoi essere comico. Allora non è questione dei governi, è questione di proprio della macchina e anche della Commissione. Tu non puoi fare 30.000 pagine di Gazzetta Ufficiale. L'ultima comunitaria italiana di derivazione europea si occupa di rosmarino, di basilico, di salvia, di preparati per il risotto, di tartufi. Allora, io credo che il punto primo è fare le cose essenziali e non fare più le cose superflue. Il trattato europeo è stato tradito dall'Europa perché invece di fare la sussidiarietà sotto quello che puoi fare sotto e sopra solo l'eccezione, quella è diventata la regola, per cui quella macchina, poi non so chi c'è dietro, le burocrazie, si è messa a fare troppo, non fa le cose giuste, per esempio sul risparmio, ci evita i bail-in che invece si sono inventati e fa le cose come risotto alla salvia, entra nella vita della gente con la dimensione delle toilette, eccetera. Chiuso. Cosa vorrei che fosse fatto? Io spero, esiste una formula che è, tanto io credo negli stati, cioè 50 anni fa gli stati erano causa di guerre, adesso sono il contenitore di quel che resta della democrazia. Se ci fosse un accordo tra gli stati in senso di articoli di confederazione che mettono insieme l'essenziale, la difesa, la gestione delle migrazioni, e non mettono insieme ciò che non c'ha senso mettere insieme, tipo la dimensione dei tavolini o dei bagni, certo. Forse articoli di confederazione potrebbe essere la formula che ci dà un futuro, una prospettiva. Io sono convinto che una unione senza stati si pianta nella disunione e rischia questo. Stati da soli, isolati, si impadroniscono del loro passato, ma diventano vittime di forze globali ancora peggiori di quelle che ci abbiamo in giro, articoli di confederazione tra gli stati dell'Europa. Allora, professor Prodi, se ho ben capito il ragionamento di Tremonti, sembra un po' di tornare, non dico alla CECA, alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, però a un'Europa insomma più su confederazione di stati. Sta circolando l'ipotesi che a questo punto il Premier Tusk, ma insomma si cerchi di fare un tour europeo tra gli stati fondatori, quindi Francia, Italia, Germania in primo luogo, poi vediamo anche con altri. Lei ha dell'idea che a questo punto l'Europa debba rinsaldarsi partendo dal nocciolo duro? Ma io sono d'accordo con la valanga Tremonti, che la Commissione fa cose del tutto inutili. Lui non tiene conto del fatto che fa le sole cose che le lasciano fare. È ovvio che non potendosi occupare del futuro dell'Europa perché è passato in mano agli Stati, ti occupi del rosmarino. Questo è. Ma io credo che il giro di Tusk può anche essere utile, ma se mette in gioco di nuovo le strutture sovranazionali, altrimenti se Tusk pensa di rifare i giochini di compromessi fra i 28 stati, si sbaglia. Per cui io concretamente penso molto più brutalmente che le soluzioni si trovano se lunedì la Merkel, Renzi e Hollande hanno qualcosa in testa in comune e poi lo propongono a tutti gli altri stati. Allora, se uno ha questo nucleo centrale che spinge in avanti, allora gli stati possono congiungersi con le strutture sovranazionali. Se no, è inutile che Tusk giri. È inutile che Tusk giri. In una battuta, perché siamo in conclusione di programma, professor Tremonti, la Gran Bretagna ci perde o ci guadagna da questo voto? Immediato credo che ci perda, pensi anche solo alla logica di stabilimento a Londra delle multinazionali e delle banche, tutta basata sul regime europeo, le direttive che gli danno le esclusioni da imposte alla fonte, la direttiva madre figlia e altro. Poi sarà un compromesso, cominceranno a rivitalizzare le convenzioni, però certamente una bella botta in questo momento se la prendono. Infatti credo che siano loro i primi a dire che... Sono tutti un po' sorpresi in Gran Bretagna, quelli che non se l'aspettavano. Professor Prodi, ci guadagna o ci perde la Gran Bretagna? Ci perde alla grande, non in termini di crollo immediato come hanno fatto nella propaganda elettorale, però ci perde perché non è più un centro di riferimento all'Europa. E stia attento, perché il fatto che i giovani abbiano votato in favore dell'Europa è un segnale, perché loro vivono l'aspetto più dinamico della Gran Bretagna e avevano capito che l'Europa era utile. Grazie, grazie a Giulio Tremonti, grazie a Romano Prodi. Noi terminiamo questa lunga diretta di una lunghissima giornata. Lunedì, tanto i temi saranno di nuovo tutti lì. Io non posso che, come sempre, ringraziare Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione e in studio, augurare a tutti voi un buon fine settimana, soprattutto per chi dovrà passarlo lavorando. Ci risentiamo lunedì, non pensate per almeno questo weekend a borse e Brexit, tanto lunedì saranno di nuovo sul tappeto. Radio 24. La passione si sente.